attenzione 10. Già. Ora. Già. Qui. Ma stavo a controllare una cosa, stavo messo un apposta un po' la stazione. Mettendo i fili in ordine. Adesso ti metto la faccia NPL io adesso, aspetta. Dove uscire la stazione? Dovete aspettare il treno. Hola? Dove uscire la stazione? Dovete aspettare il treno. Questa Dicasi stazione, insieme di apparecchi radio ricetrasmittenti, Dicasi stazione. Ah, ti è piaciuta? Se quella di cagitazione, questa di cagitaleferica. E vabbè, non tutti possono avere i sulighetti tu a comprarsi la roba, io quello che posso fare fa. E già stai sgarrando, nessuno ti ha parlato di soldi, è questione di spazio, non soldi. Vabbè, comunque mi stavo mettendo a posto queste sottospecie di radio, come le vuoi chiamare, tu. Mi stavo mettendo a posto quelle qua, perché praticamente c'avevo due fili un po' disordinati, dai, intrecciati, infatti li ho messi tutti a posto, ripiegati bene con quegli affari per legare i fili. Figurati, io ho suonato un pacco di fascette. È la tua dica di stazione, infatti. Io non posso chiamare la stazione questa. Questa è una sala radio, perché ho il posto. Tu non avendo il posto hai una stazione radio. È normale, no? Il significato è sempre quello. Ehi, allora, poi diciamo che pure il coso è sempre lo stesso. Cosa? Adesso sto uscendo con LinkedIn e mi sta dando 20 watt in questo momento. Come sta andando? Sto tendendo la roba qua nello stendino. Prova. Ehi, guarda, va. 20 watt c'è adesso. Regolato il tutto. La situazione. Cosa 20? Adesso sono 2. 20 watt. Che radio è questa 20 watt? Erano 2, cla. Ah, 2 watt. Ho visto il segnale, c'è 9.10, 9.12. Cazzo, 20 watt sono tanti. 20 watt di radio rack, ma a misericordia. Non ho guardato bene, dai. Adesso ce li ho 20 watt, dai. In questo momento. Adesso sì, 9.20. Ecco, mi sono preso un mezzo spavento, va. Per fortuna mi è andata bene. L'avevo già combinato. Ho invertito i poli senza rendermene conto, attaccato e spostando i fili. Cazzo, la lancia delle bacche non funzionava più. Ai, ecco qua. Ho guardato dietro e c'erano i poli invertiti, c'erano le bananine colorate pure. E ho proprio la distrazione. E ho fatto partire il fusibile, per fortuna è partito quello. Ma scusa, ma tu non c'hai il box come quello che c'ho io? Anche se inverti i fili non succede niente, non parte niente, si spegne l'alimentatore in automatico. No, il mio continua. Praticamente quando tu inverti i fili parte il fusibile e continua a andare, capito? Secondo che colpo gli dà, se il fusibile non è quello giusto, se puoi dire più alto, la corrente continua a distruggere il baracchino. Infatti devi avere sempre il fusibile, preferibile averlo più basso che più alto. No, è come quello che c'ho io, l'alimentatore. Io ho il boxer con autoprotezione, anche se inverto i fili, praticamente l'alimentatore si spegne e non dà più tensione. Capito? Si spegne in automatico. Devi spegnere l'interruttore, aspettare qualche secondo che si azzeri, poi riaccendi l'alimentatore e il baracchino si riaccende. Evidentemente colui non ce l'ha, ma tu cosa c'hai? Il 60 o il 50? Allora, questo qua è 35, questo che sto usando adesso, ed è Oxy, non è Proxel. Quello del 50 ce l'ho, lo uso con altre cose, capito? 50 c'è lineare attaccato. Vabbè, puoi attaccare anche il lineare nel baracchino stesso, non fa niente. No, quello della Proxel ce l'ha l'autoprotezione. C'è la ce l'ha. Quello dell'auction è una fregosa, quello non è appunto la marca che fanno queste cose. Ma la Proxel, la Dive, la Diamond, eccetera, io ho quello, la Proxel da 60 ampere e quello della Diamond da 50 ampere. Poi c'ho Nisei, poi c'ho Proxel e poi c'ho anche questo qua che sto usando adesso con quel baracchino piccolino, dai. Mi sto rilasciando 5 minuti qua perché stavo pitturando la cucina e dopo che ho finito di pitturare, pulire, fare, qua mi ne esci dalla gara. No, oggi ho mangiato la mozzarella a pranzo, non ho mangiato altro, ho continuato. Vabbè, già, però fare cose piano piano. Io mi ho fatto tutti i termosifoni l'altro giorno e poi mi sono usato perché ho un mal di schiena allucinante. Infatti devo farne altre due, però me li faccio col banchetto, usato. Perché se no inchinato mi fa male la schiena. Vabbè. Fammi finire di stendere sta roba, dai, che già lo sai, io sono incasinato ancora con mia moglie. Già sono qua comunque, dai, saluto anche a Luca. Ah, stai tranquillo, Cla. Purtroppo. Tu le stai facendo solare, io le faccio sempre quelle cose. Se ti può consolare. Non è che mi consola, no? Non è una cosa che mi piace assai, comunque, la devo fare, dai. Ho steso una parte fuori, però adesso c'è già umidità, quindi la roba, quella più importante la sto mettendo dentro uno stendino vicino al termosifone. Dai, dammi 2 minuti e già sono qua. Ehi, ehi, dai, tanto qui alle 6 devo andare a prendere Marco che dobbiamo fare roba. Ancora un po', già posso trattenermi. Sì, già sono qua, non ti preoccupare. Vado in cucina a spegnere la radio perché mi stava facendo compagnia alla radio. Qui acceso qua. Vai. Per il re. Oh, Luca, sto spendendo. Mi sto facendo uno spezzone, là. Ehi, fai, già sono qua. Hola, attenzione, binario 10, cambio. Allora, per il re. Che piede di merda, cazzo. Nato quelli per il 58, io sto usando il cavo 58U, che è poco più grosso e non aumenta. Ma tu lo devi dire però, che c'è quello leggermente più grosso. Gliel'ho detto, non è un pezzo. Vabbè, dai, quasi finita, aspetta. Ehi, va bene. Eccomi qua, come si fa? Ehi, già. Vabbè, tornando a Boccazzi, cioè capito, già stavo scherzando. Però molti chiamano appunto Sala Radio, Shack, quelli che hanno molto posto. Gli altri invece stazione radio perché il posto è quello. Beh, io la posso chiamare stazione perché è un insieme di radio, non è una radio solo. Un insieme di radio fa una stazione. Lo so che stavi scherzando, anch'io stavo scherzando. No, vabbè, si chiama stazione radio anche quando c'hai quello spazio dove metti le radio, un insieme di radio, giustamente, come hai detto tu. E quella è una stazione radio, poi uno come me che ha la camera proprio abilitata, adibita a solo radio, quindi una sala radio, come molti chiamano Shack, qualcuno, mio Shack, io non chiamo Shack, qui c'è una gamma, la curva da chi, ecco, il gergo porchettino. Luca, prendi il trapano, allarga il PL, se no non ti entra. E come fa a allargarlo, scusa, che c'è la frettatura, dove devo allargare? Ma non so se c'è quel PL con l'adattatore, deve allargare l'adattatore, se no non entra la massa. Perché lui c'ha il 58U, che è leggermente più largo, capito, rispetto al 58 normale. E non che a Sassari mettere tutti i manchi, già regala immondezza, poi Fusaro in particolare c'ha questi PL che fanno leggermente impressione solo a vederli. Ce l'abbiamo detto stamattina di ordinarli, Antonello ha detto che adesso può ordinarli, ma da Gandue che li danno i denti, Marzia mi ha detto che li ordinava gli Anfe, non gliel'avevo ordinati io e poi non sono mai arrivato. Ma avete detto ancora solo, se tu hai problemi che non trovi l'azienda, che io te li trovo i PL buoni. Io ho degli amici in continente che ogni tanto mi rimandano, mi hanno mandato un banco da 10, quindi però li ho tutti consumati. Quando ho fatto lavoro esterno delle antenne, tutti i cavi esterni sul tetto sono PL Afano, all'interno sono quelli in martinite marrone, però esternamente vogliono buoni. Io ho detto, se voi te li faccio avere anche una ventina non ce n'è problema. E lei ha detto di no, capito? Lei ha detto di no perché è senza fattura qui e là, per conformare dei biazzi. No, poi lei dipende all'ingrosso, perché li paga di meno, poi c'è il guadagno. Se tu li fai prendere da uno che già vende al dettaglio non ha nessun guadagno, è quello. Vabbè, però se vuole accontentare le persone non può continuare a vendere mondezza, perché quei PL fanno veramente schifo. Tu immaginati che io per ben tre volte, proprio con i baracchini, non con gli HF, con i baracchini mi sono trovato in grande difficoltà, cioè modulando, a fischiare, a fare, ed era i PL buttati via, fatti a pezzi e buttati via, capito? E ho dovuto mettere PL buoni che non volevo mettere internamente. Purtroppo è così. Tanto è vero, da quando ho messo PL buoni, spezzoni buoni, spezzoni non ne ho, però PL buoni nei cavetti della commutazione dell'antenna, le radio stanno funzionando bene tutte. Mentre prima chi fischiava, chi non usciva, chi ci aveva rumore di alternata, è causato anche da quello, è già. Vabbè. Un po' tutto è lui è a casino. E vabbè, e che poi va. Qua non c'è roba buona. Sono in continente la trovi, anche a Cagliari c'è forse. Vieni a Cagliari da qui in quel rifornitore dove vedevano tutte le antenne, ti ricordi? Quello lì praticamente ne va tutte le cose per cibi. Lo so, ma quello mi sembra che abbiamo fatto, perché l'ultima volta l'ho chiesto a Gigi, mi ha detto che aveva chiuso, stava svendendo tutto, però c'era roba buona, sì, molta roba detta G, però andavi a prendere PL e ce li aveva in batterite. Comunque PL in batterite marrone ce li ha la GBC, è che se li fa pagare, però ce li ha. Anche a Porto Torres li trovi, da coso, via Principe di Piemonte, via Principe di Piemonte, lì, di fronte alla scuola di Borgona, c'è di Lugo, ce l'ha presente. Sì, ho capito. E quello ce li ha, perlomeno, c'aveva Regi 58, c'aveva PL, c'aveva tutto. Lui lavorava alla zona industriale e apriva anche il negozio, c'aveva due cose, due lavori insieme. Sì. Ti ho capito, beh, c'è anche Mauro Bonomo, che già ce li ha, non c'è problema, quello che lavorava con cosa, come si chiama, quello che faceva in via Sassari, l'ingresso di via di Porto Torres, a destra, che faceva Marche, Scandagli, quella cosa lì. Mauro in Viale delle Vigne, ce l'ha anche lui perché fa impianti d'antenne anche, capito, per le barche, quindi sempre quelle sono gli attacchi delle radio, non è che cambia molto. Sì, me lo ricordo, adesso c'è il fotografo, mi pare lì. Sì, lì c'è il fotografo, lui ha preso un magazzino lì, sai dove? Allora, Viale delle Vigne, dove c'è praticamente, cos'è quella cover, che blu, non mi ricordo. C'è un supermercato comunque lì, sì, subito dopo dove abitava la Bonarema di Giampaolo, a sinistra, dove c'è quello del radio, come ti chiama? Radio Vitanova, dal palazzo, quello lì, si gira lì. Ho capito. Non mi ricordo come si chiama quella via, mi sto dimenticando tutto, prima sapevo stare via a memoria. Vabbè, di là a me, se tu non mi chiedi via di Porto Torres, io mi cresso, quelli già sarei già marcavo bene. Ma quelli di Porto Torres mi so muovere, ma non mi dire le vie, perché conosco via Cavour, via Alfieri, via Sicola, via Principe del Piemonte, quelle dove sono nato, capito? Via Torre Sacchi. Tutte quelle, però se mi dice tutte le altre vie di Porto Torres, io mica le so. Ce ne sono di vie, io me le ricordavo tutte a memoria perché facevo le consegne, dovevo sapere dove andare. Per forza di di cose e dovevo memorizzarle. Lo so. Anch'io me le ricordavo quando ero libero. Adesso non me le ricordo più. A me, Lucaria, riusciteci a mettere queste pietre. Cuccia. Dice al Garabagè. Sì. Non è mio, è giù. Guarda quanto amplifica questo microfono. È giù nel giardino. E c'ho la finestra chiusa. Ma sei finito? No, claro, con il 58U viene un po' male, dai. Viene un po' male, siamo tutti 58. Se no devi prendere gli adattatori, andare in qualche officina e farti passare la punta del trapano. Fattura di male, ma non è uno, cazzo. Pa un PL devi giambare a capo, cazzo. Ma non riesco a capire. Un casino, Ma che cosa sta facendo Luca? Che cavolo sta mettendo l'antenna? No, per lo spezzone per lo smetto, aspetta. Ah, cazzo. Vabbè. Io va bene anche le 10.58, io ce l'ho le 10.58. Io perché cosa pesce chiave con i baracchini? Cosa pongo? La Camille? O 213? Il commutatore, l'antenna entra a Camille nel commutatore, ma poi le tre vie sono commutate con spezzoni di RG 58, quello buono, e se no già serve a niente. Vabbè, sì, beh, e cappagappa. E purtroppo con la Camille forse è troppo tettaro, rimane troppo duro. No, poi non ha nessun senso, cioè sono dei baracchini che vanno il massimo con 5, 6 watt, 8 watt, e lo esagio di perché a cavo grosso, fa cosa. Poi c'è da una scrivania all'altra, da una base all'altra, ci sono 2,50 m, 3 metri di cavo, quindi cosa. No, non serve a niente. Oh, che stanchezza. Mico sta mugugnando, vuole scendere giù, non capisco perché. Lui è a diarrea, si sta mugugnando. La giornata dei cani. Anche Filippo oggi non è stato. Adesso mi si è addormentato, ha rigurgitato. Dopo pranzo, anzi prima di pranzo, infatti l'ho fatto mangiare più tardi, anziché all'una e mezza, di solito mangio, è arrivato alle 2:30. Capito? Non so, si è addormentato, un po' bacchiato, vediamo come si comporta stasera. Dai, scendo giù, non si sa mai che tu me la faccia in casa, cazzo, guarda, non posso stare un attimo tranquillo, scendo giù perché poi magari me la faccio in casa, se cioè, deve avere. Ehi, a porta, già sono qua, già. Lu, qua sì. Oh, Lu. Ehi, aspetta, sto saldando, dimmi. Ma devo fare un passaggio con due microfoni. Questa modulazione te la registri così, orecchio, che cambio microfono a vedere qual è la migliore, se questa o l'altra. Vai. Guarda Lu, qual è migliore, questa o l'altra modulazione? L'altra ha più acuti, più toni alti, mi capito, però vanno verso i due. Oh, chi è sotto? Oh, c'è qualcuno ha parlato assieme a te. Questa c'ha più tonalità medio-bassa? K. Ma è forte lo stesso, è bella lo stesso. Meglia. E secondo te quali preferisci? Un tuo parere? La prima o la seconda? Ma sono queste due, diciamo che la prima è più forte. C'ha più toni alti, capito? Più bella come cosa. Ma anche questa qua non è male, dai. No, vabbè, ma è più bella quella là, non la lascio quella là, dai. Come vuoi. Lasciamo tutto come sta allora, dai. Lasciamo tutto così, già va bene. Mi senti, Cla? Ah, grande. Aspetta, eh. Oh, 1-1 stazionari. Ah, vabbè, lascia tutto così, già va bene. Grazie. 12 watt. 12 watt da quella radio. Eia. Oh, fammi sapere per quella roba là, perché devo fare l'ordine, capito? Per quella roba là. Per l'invito che ti ho fatto. Ah, sì, sì, sì. Non lo so ancora perché... adesso deve vedere l'aria. Mercoledì lo so, capito? Mercoledì te lo dico. Che poi c'è, Carletto, Silvana. È un altro paio di amici, non c'è molta gente, capito? Tu, mercoledì te lo dico. Tanto a te piace il vino bianco, no? Io bevo tutto. Vabbè. Era giusto per sapere. Perché sai cos'è, cara? Se mettono quelli giusti, così compro una torta, poi cazzo non voglio buttarla, giusto? Il tanto giusto, 2 kg a voglia, siamo in 10 mi sa. A voglia che già va bene, non c'è problema. Kappa. Mercoledì te lo dico perché non so ancora niente, te l'ho già spiegato. Poi mercoledì mattina c'è anche la visita, ma quindi dobbiamo vedere cosa ti dicono. Senza impegno, non ti preoccupare. Kappa. E a 46 mi siamo arrivati, ancora no, si manca di più di. A quanto? 46. Stai prendendo quote, Adesso ti funziona la vittella con la gazzarella. Io mi buono una galamitta. No, se io buono una galamitta poi si può attraente. Una galamitta così porta di via, così quando passi si attacca tutto, capito? Ma diventa un buono attraente una galamitta, è vero. Vabbè, tu passi davanti e se la tira, no? Oia, come a noi, sì. Aspetta un attimo che sta chiamando Mari. Fate, già sono qua, io non c'è problema. Brecco, binario 10, qualcuno l'ascolto, passo. Avanti il brecco. Sto facendo una prova per montare l'antenna, mi ricevi bene, sono Massimo. Ciao Massimo, Gianni Lubrofetta da questa parte, Santiago 9, Radio 5. No, il primo passaggio era ottimo, il secondo la radio è sparita. Adesso? Positivo, adesso va meglio. Adesso in questo passaggio non si è uscito in radio, non so se stai facendo delle prove. Sì, sto facendo prove, ma non capisco se è l'antenna oppure il microfono. Adesso sei uscito forte e chiaro, Santiago 9 Radio 5. Kappa, quindi è il microfono che c'ha un po' di difetti. Ehi, da che zona moduli? Via Maddalena. Allora siamo vicini, qua zona stazione ferroviaria. Siamo un tiro di palla. Bene, lascia tutto così che va bene, dai. Mi collego magari un po' più tardi quando ci sono anche gli altri un po' lontani. Kappa Rogero, a da voi, ciao. Grazie mille, a più tardi, ciao. Ciao Massi, ciao. Vabbè. Ciao Claudio, buonasera. Sono entrato al volo adesso. Non è che c'è Luca nei paraggi, no? Ma Luca chi? Luca Flipper o Luca Manicomio? Luca Manicomio. Luca Manicomio era qua, l'ha chiamato la sua signora, ma non so dove è andata. Bene, no, volevo sapere se aveva mandato il messaggio a Antonio, che mi ha detto che gli mandava un messaggio, visto che è a contatto, volevo sapere come è andata a finire. Già, non so di cosa stai parlando, quindi no, non so cosa dirti. Luca da qua, magari rickshaw, rimane in quel rickshaw, rientra perché stava parlando con me, poi l'ha chiamato Marina ed si è allontanato un attimo. Bene, bene, dai. Ok, dai. Tengo acceso, vediamo un po' se è stata fuori, perché è tipo a corrente alternata. Ora c'è o non c'è, ora c'è o non c'è. Mentre i carabinieri, accendi e spegni. Fate lo giamo, Luca, accendi e spegni. No, volevo sapere se aveva sentito Antonio Grode, se non sbaglio, che doveva mandargli un messaggio per una vecchia antenna, boh, una cosa del genere. Volevo sapere se gli aveva dato risposta. Non lo so, non ho partecipato a niente, quindi non so cosa dirti. Aspettiamo quando entra, vediamo cosa dice. Bene, Mera, bene, Mera, finalmente c'è una bella giornata di sole, cazzo. Adesso domani mi rimetto sull'antenna. Oggi stavo facendo roba al computer, quindi domani ne approfitto e ci rimetto la boomerang. Approfittano in questi fino a domani, perché poi mi sembra che dal mercoledì in poi cambia di nuovo. Se non pioggia, ma molto molto freddo, c'è un'altra perturbazione di passaggio, cui stava dicendo la TV, il meteo. Quindi approfittare. No, io mangio di far più nuda nell'altra gabituria. Già va bene così. Posso solo salire con la forbice e staccarmi anche quei cavi, quei pochi cavi che ci sono rimasti. Sì, no, vai, ne approfitto domani mattina. L'ho aggiustata e ce la rimetto su e ciccia e poi vediamo, dai. Non si tocca più niente sino all'intervento successivo, dai. Comunque sono riuscito a fargli un accrocchio, una sorta di innesto tra i due pezzi con delle fascettine, e domani la montiamo su e niente, riprendiamo e rimettiamo tutto in forma come prima. Positivo è positivo. L'ho vista quell'antenna che c'hai, l'antenna di macchina, ma funziona veramente molto molto bene. Tieni te racconto, quell'antenna funziona veramente molto molto bene. Sì, il muletto, dai. Il muletto, almeno quando dovrò fare altre riparazioni c'è sempre la, come si dice, il sostituto pronto ad essere agganciato. E niente, insomma, ne approfitto domani e ciccia, e gira bile le luci, come dicono a Bergamo. Allora, noi dimmo gira bile ancora, lo dico gira bile le luci. Il segnale com'è? Variato per caso, qua, il mio? No, è sempre uguale, cazzo, sembra che stia usando la boomerang, già. Bene, Mera, bene, Mera. Ok. Tutto fa brodo. Brodo di giugio, eh. Andiamo, andiamo, cazzo! Oh, Vannino di Sorso, ciao, buonasera. Mia Luca, non senti a Luca. Prova a chiederglielo a vedere. Ciao Luca, buonasera. Volevo sapere se avevi mandato, se ti eri sentito con Antonio, avevi mandato il messaggio per caso. Negativo. Se vuoi ti passo il numero, lo chiami tu. Ehi, dai, magari mandamelo come messaggio su fascia di buco. Magari provo a fargli uno squillo, ok? Chiamalo su WhatsApp. Ciao Franco, mi ascolti da Sorso? Andiamo allora, cazzo, babbo! Avanti, ciao Franco di Sassari, avanti. Ciao Franco di Sassari, c'è l'altra. No, Vannino da Sorso, ciao Vanni, avanti. No, io ho sentito Franco da Sorso, ma Franco da Sassari, boh. Allora mi sono confuso con da lontano con Gianni Rubio Fetta, dai, riprendete. No, c'è Luca Maricomi, Luca Flipper, siamo usciti poco fa, anzi mi ha mandato un WhatsApp poco fa, gli ho risposto ma non mi ha ancora risposto. Ho rientrato al lavoro da poco e se la metti, ma in radio non c'è, c'è Gianni Lubro Fetta. Già, lo senti a Vannino da Sorso? Ehi, lo sento un po' più questa antenna. Ciao Vannino, buonasera, ben ascoltato, avanti. Ah, bacia, bacia, che sei tutto giusto, lascia com'era. Lascialo stare in quarta. Massimo in quinta, non mettere mai in sesta, se no saltureggia. Però vedi miti lui, Serignani. Va bene, lascia così, se Santiago 9 qua, lui ha problemi con l'antenna. C'è un'antenna di macchina, non è un problema tuo, lascia tutto così. Cos'eri in vacanza? Dove sei andato? Sono a Saturnino o a Valle d'Orieri? È bella sì. Molto molto bella, c'è andata mia figlia, molto molto bella. No, io sono andato un anno, 2 anni fa esattamente, per l'esattezza, lì a, a Benetutti, capito? Sono andato lì, perché quella di Valle d'Oria era ancora in disuso e con Ron Jones non sapevo neanche che esistesse. Comunque mi hanno detto che era una bellissima struttura. Io più che relax ho guardato a chi mi ha ordinato l'ortopedico, se no non avrei andato a, a fare relax. Mi hanno fatto molto molto bene, poi chiaramente sono proprio esattamente quando un mese, 2 mesi ero già andato via da lavoro, prima non potevo farlo, quindi è 2 anni, è 2 anni e mezzo, quasi 3 anni, 3 anni fa. Va bene, va bene, già fa bene comunque, fa molto molto bene, molto molto bene, soprattutto per il problema che hai tu, che ho io, e infatti c'ho così praturole, dove io col cambio di temperatura, cambio del tempo in generale, caldo, freddo, tira, molla, come ti tabasci, mi ripeso tutto, tutto guascio, vabbè, pazienza, ce l'ho, me lo tengo, avanti Gianni, riprendi. Ehi, sì, messaggio per Luca, ho ricevuto il numero su WhatsApp, dai. Ok, adesso provo a mandargli un messaggio e niente. Ragazzi, io mi devo spostare perché devo finire di pulire il computer, perché devo formattare tutto e fare un po' di pulizia, quindi al limite rimango in ascolto e appena finisco rientro, dai. Ci aggiorniamo ad a voi, ok? Ad a voi. Ciao, va bene, ci aggiorniamo dopo, già sono qua io, non c'è problema. Vabbè, l'importante è che ti sei rilasciato e è andato tutto bene, poi per il resto, tutto il resto è noia, come diceva Franco Califano. Non so, io sto facendo le punture di mia figlia di nuovo. Infatti lo conto, proprio nuovamente punti a capo, pensavo aver risolto il problema, dimagrendo, facendo, invece niente da fare. Già c'è un po' di strada, c'è. C'è, va bene, però ti ripeto, l'importante è che abbia risolto, dai, data una... un relax, hai fatto un po' di relax, una sistematina, già va bene. Dove devi andare? Ah, da Panzone devi andare. Sì, del proprietario a Panzone. E te lo presenta Luca. Ehi, gamma zappa è molto Vanni, gamma zappa è vero, se no siamo incasinati e tu pensi non stia zappando ancora, anche se non con la zappa ma con la paletta. Ah, già, hai già dato anche tu Vanni, basta, basta, se puoi ritirati così. Io giusto perché sto dando una mano nel paese mio cognato, se no me lo stato a casa a grattarmi le balle, ma ho già me la frutta sai. Non mi interessa più niente, tanto non ne ho voglia, non ce la faccio a fare determinate cose, quindi è inutile stare a strafare. Perciò basta così. Infatti fai decidere a loro. Una volta che sei tutto pronto, ciao, arrivederci, buon viaggio, l'ho fatto io. Però qualcosa bisogna farla, se no stare tutto il giorno a grattarti le balle, come fai? Non fa, non fa. Gianni Dromi. Cioè Gianni Dromi e Gianni Magni. Sono tutti e due assenti. Ah vabbè, ti ho detto 6-7-9. Santiago non più che positivi, la radio ha migliorato tantissimo, lascia stare così, vanno intanto. Nella zona bassa ti sentono anche meglio di me, qua sei Santiago Nova, perciò a voglia va bene. Non so come ti sto arrivando io, anch'io sono col baracchino, però già si difende bene sta radio. Mi sono bisogno di altro, arriva. Sono seduto che erano pure 2:30. Ho lavorato un po' in TV, qualche film, un po' c'è un documentario di animali eccetera, all'inizio come me ne sono entrati occhi, anche qua c'è una televisione, un'altra televisione anche qua è accesa, e poi è entrato Gianni e mi sono messo in radio, beh, comunque già sono qua, ok, se voi sono qua, ciao Vanni, alle prossimine. Pronto, c'è nessuno? Pronto? Ecco. Adesso in questo momento c'è qualcuno provando? No, c'è solo adesso non ho fatto niente. Dimmi una cosa, ma quella teco di quell'autoparlante che ti avevo detto, novità ci sono? Non ce n'è novità. Devo sentire se non ha cambiato si può fare. Me l'avevi detto pure, adesso mi è venuto in mente perché stavo guardando una cosa, ho detto, ma non mi ha più fatto sapere niente. Vabbè, con mia moglie così mi sono anche un po' dimenticato, però provo nuovamente a sollecitare, se non ci sono stati cambiamenti lo facciamo. No, vabbè, senza impegno, naturalmente c'è cose più importanti. No, adesso mi è venuto in mente, perché ho detto, ma cazzo, avevamo parlato di quella cassa e poi invece non è andata a buon fine. No, la verità è che è già andata a buon fine, anche poi mi sono dimenticato io. Vabbè, dai, se capita, se c'è 5 minuti fammi sapere, dai. Ehi, come è andata oggi, bene? È un po' combattimento, lunedì qua è sempre un po'... perché poi sono tutti in fretta, va, viene la bressa a tutti, tutti i lavori veloci, se la vogliono tutti subito, ma non è che può accontentare a tutti, qualcuno deve per forza aspettare. Vabbè, lunedì c'è l'ingresso del lavoro, ma il venerdì c'è un po' più libero. Se venerdì riesco a trovare il buco, già te l'ho detto, non ti preoccupare, già lo facciamo. Vabbè, manco mi sente bisogno. Quando c'è il tempo e si fa, non c'è problema. Non è così urgente intanto, non è che la sto usando molto. Sono sempre a casa, non mi amore così, dove andare. Tu giovedì mattina passa e ti confermo se per venerdì c'è il buco per farla. Vabbè. Oggi è una bella giornata. Volevo uscire in moto perché troverò un freddo, ma gli ho detto no, sono andato a fare la spesa, sono andato in macchina. C'è ancora freddo, però le temperature sono andate, domani c'è stato ancora un po' di più, solo che la sera, ma raggiunsi, dopo le 3:30-4 inizia a abbassarsi la temperatura, per dire a mezzogiorno si sta discretamente sino all'1, alle 2, poi di colpo scende il freddo, l'umidità, c'è una iatta fuori, dice, mamma mia. Infatti sto già pensando a portare il cane dopo, già mi copro, come ho fatto ieri, guanti, le rettine a testa, che anch'io non è che sono molto messo bene. No, il berrettino io d'inverno lo metto sempre, e qualche raffreddore me lo risparmio almeno. Poi se c'è caldo me lo tolgo, però ce l'ho sempre a disposizione in officina, perché a me mi piglia subito il raffreddore e temo più di qualunque cosa. Lo so, a me invece il raffreddore magari se non è molto forte già lo sopporto, i dolori alla schiena, alle ginocchia, alle braccia, è un casino, Io un po' nessuno è entrato adesso, io sono entrato così un attimino. No, c'era Gianni Doppio Rum che è sceso a portare il cane perché stava facendo la monella, voleva scendere. E poi c'era Luca Vermonte che era con me, l'ha chiamato la signora ed è sparito. Poi c'era Gianni Rubaffetta, lo stesso che è sparito. Nessuno. Per quando è che ho acceso? L'altro giorno di mattina, forse il sabato, e non veniva nessuno. Sabato mattina la gente si dedica magari a fare altro, commissioni, capito? Andare a fare la spesa, eccetera. Io difficile, a meno che proprio adesso in questi giorni che sono a casa mattina perché devo pulire o preparare quando non c'è mia figlia. Ma mia figlia può stare sempre qua, anche lì c'è la cosa sua da fare, c'è la casa sua, quindi no, capito? Però c'è abbastanza presente, anche perché sta facendo le punture alla mamma, quindi. Addirittura le punture? Eh sì, non ho altro delle punture da fare dopo l'operazione, essere post operativo, come diciamo. Merito riabilitativo, ma dimmi una cosa, ma è tua figlia sa fare punture? Eh sì. Che coraggioso, non so tutti, no? Chi le l'ha insegnato? Lei ha imparato da sola, non le ha insegnato nessuno, perché lei c'ha la artrite reumatoide, quindi ogni venerdì si fa la puntura alla pancia. Cosa c'ha? Non ho capito. L'artrite reumatoide. Ma chi ce l'ha? Mia figlia. Addirittura? Sì, purtroppo sì. È già un po' di anni, 2 o 3 anni. L'ha scoperta quando era al McDonald's che non ce la faceva sollevare il contenitore della friggitrice. Sembrava fosse qualche strappo, qualche dolore, eccetera. Invece ha fatto tutte le analisi, tutti i controlli e c'ha l'artrite reumatoide. Niente, deve essere sotto controllo quindi. E glielo credo, sempre in cura. Sempre in cura, anche lei prende un sacco di pastiglie, c'ha cazzo 33 anni, 34 deve fare. Pastiglie, punture, palle varie. No. Già ne ho anche io roba e lascia perdere. Adesso purtroppo cazzo. Chi più che meno, ma c'è sempre qualche problemino, dai. C'è un bel argomento, dai. Se no vuoi. Se no usciamo fuori, dai. Cosa volevo dire? Di altro nulla. Adesso dopo devi portare il cane. Sono 7:15. 7:30, 8:15 lo sto portando, tanto prima non esce. È lui che te lo dice quando devi uscire. Ah sì, tu deve essere coricato, coperto, col plaid, sotto la TV al calduccio. Quando deve uscire si alza, inizia a venire qua, ma di solito è sempre in orario. Ieri erano già le 8:15, ancora coricato, mi sono avvicinato io, ho detto, beh, ma non hai voglia? Allora si è alzato, si è stiracchiato, si rilassa 2 minuti e poi si fa mettere la pettolina e vuole scendere. Quindi non lo rovina il lavoro a questo cane? Non lo rovina il lavoro e non rompe le palle soprattutto. Sono cani che alle 6 di mattina ti si piantano davanti che vogliono uscire. Questo prima di 9:30 alle 10 non esce la mattina, cosa pensi che c'ha a leggere il mangiare? Ma se arrivi, cioè come ti dice il signore, esce tranquillo, se ne pensa che hanno una gara. Ma è un buon, sono dei cani così, capito? Anzi, i cani meticci a quell'ora devono uscire, lui è così, trattiene tantissimo, capito? Trattiene molto, però è così. Ed è un buono perché almeno riposi, no, non stai. È capitato qualche volta alle 2-3 di notte che è giunto un cuscio, è chiaro che allora ti sveglia, allora si punta, vuole scendere, quindi non è la prima volta, non è stato d'inverno, sto comprando il pigiamone in salato, meno male già c'ho il giardino qua, non esco dalla strada, perché le viene è venuto un bisogno e quindi deve farla, perché dentro non fa niente, può crepare ma dentro non fa niente. È stato abituato, quello è un bene, quando il cane è abituato. Anche da piccolino, proprio io quando l'ho preso aveva 8 mesi, era già grandetto ed era già abituato, capito? Però mi veniva il dubbio, ma questo cane non vuole mai uscire, non vuole uscire, esce tardi, sempre dormito, ho detto, sono malato. E il veterinario mi ha detto, no, non sono così, sono molto, molto, molto tranquilli, mi piace molto il caldo. E poi resistono parecchio, capito? I bisogni li fanno proprio quando non ce la fanno più, perché sono talmente, talmente mandroni, come si dice in sassarese, che preferiscono stare con i gatti, capito? E come noi, no, che siamo al carduccio d'inverno, mamma mia, facciamo pipì, facciamo, io dopo vado, così fanno loro. Così faccio io. Ciao, ma non è mandrone di chi su cane, deve essere di... No, perché normalmente sono i cristiani e mandroni, invece un cane mandrone non l'avevo mai visto. No, mi fa troppo ridere una situazione del genere. Ma non è di quel cane giocherelluni che gli tiri la roba tra il report? Già gioca, c'è il Gigi Votto, c'ha la pallina, però le buca, le distrugge, capito? C'ha una dentatura micidiale, roba. Che è abbastanza grosso, si stanca parecchio, non è che gioca molto, non è che è salterellone, fa, capito? Un cane da 30 kg, vabbè, non è più brincare e fa, sono molossi, capito? Non hanno molta vita lunga. Beh, Marco, che tu sia un cane mandrone, su questo non ci piove. Sicuramente non sei un molosso, non sei un randagio, puoi essere un meticcio. Che se pure meticcio. Oltre che mandrone. Buonasera a tutti, sono entrato a salutare, adesso devo fare una commissione, quindi esco. Voglio dire a Roberto, quella radio era adeguata, l'avevo provata, naturalmente provata stamattina con un'antenna risonante in 40 metri è di lusso. Però naturalmente ci vuole antenna, su quelle bande, ovvio. Dai, riprendete, io adesso mi preparo e vado a fare questa commissione. Vai Roberto. Aspetta, rompo un attimo, scusa, mi ho ordinato proprio ieri, anzi me l'ha fatto ordinare mia figlia, per quella radio lì vendono il connettore da jack mono con l'uscita a PL, per attaccare il PL, me l'ho ordinato, costa, finito di spese di trasporto, costa 8 euro, costa di più il trasporto, pare costi 5 euro e 2,50 euro lo spinotto, jack piccolino 3,5 mono e uscita con attacco PL, poi c'è anche attacco BNC, ma l'ho preso a PL. Esatto, Robè, esatto. Io ce l'avevo già dal Texun, ce l'avevo. E quindi l'ho riciclato. Sì, guarda, con antenna in 40 metri risonante veicolare, sto dicendo veicolare, sono andato a zona centro ecologico lì, più su, dove c'è quel campetto di calcio con la rete. E pensa che si stava anche chiudendo la propagazione, però la ricezione è notevole. Ti avrei girato il video, se qualcuno mi fa da ponte. No, è buono Marco, ti sto dicendo, sono rimasto stupito io. Vai Claudio. Certo, devi far vedere il video a Roberto, ma non a me, io giro io. Sì, è breve, è meno di un minuto, perché anche fanno passaggi falconiani un po' i radiatori lì, in quella banda, quindi è una roba breve. Però la ricezione è buona, poi a me interessava esclusivamente per la banda laterale. Ok, va bene, allora provvedo. Andiamo, Marco, già glielo giro io a Roberto, c'è problema. Che cos'è, un ricevitore? Sì, tastabile, una radiolina, tipo Texun, tipo Degen, quella roba lì. Sembra quella radiolina multibanda per la M, no? Però questo ha l'SSB, che è l'unica cosa che mi interessava, perché banda aerea non mi ha fatto nulla. L'FM, vabbè, ce l'ho dappertutto, l'FM commerciale, sì. Così la vedi anche tu adesso un attimino. Ho notato che come dire, WhatsApp ricomprime a morte la qualità dei video, quindi qua è eccellente full HD, quando vi arriva a voi è molto molto peggiorata la qualità del video, però sono le regole di WhatsApp, dai. Lo so, anch'io ho qualche problema, faccio qualche video, faccio qualche foto, sembra che siano buone, bella, poi la mando ed è uno schifo, dai, mandamo che così la gira Roberto. Che io. lasciamo un attimo nel bianco se qualcuno vuole entrare nel frattempo, se no riprendi tu Claudio. Sì, poca niente una gamba. Ascoltoni c'è un web, non parlare non c'ha più voglia nessuno. Ascoltoni, se ci fosse un meccanismo per vederli, chissà quanti ce ne sono. Ho quello CB Talk, quello sul cellulare, con quello già lo sai chi c'è collegato. Purtroppo qua noi cosa non lo possiamo vedere, ma c'è qualcuno piace ascoltare, anche a me molte volte piace ascoltare. L'importante è che non bisogna neggiare a vedli, come si dice a Sassari e Pettegolezzi dopo. Andato via qualcuno, chiaramente sono finiti, per carità di Dio. No, Gianfranco c'ha un sistema che si accorge se c'è gente negli altri canali. Ma sto leggendo l'altro giorno, non so che sistema sia, ma lui ha una tecnologia nelle radio che è allucinante. Aspetta che guardo questo video e te lo giro, Robè. È lungo a scaricare però, dagli tempo. Sì, ma Gianfranco avrà il waterfall, cioè lui vede tutta la banda e quindi quando compare un segnale su frequenze vicine vede proprio visivamente il waterfall, come lo volete chiamare, quello del ricevitore SDR. Vediamo se c'è Gianfranco all'ascolto. Ma lui vede se ci stai trasmettendo, no? Non vede, se io sto ascoltando non vede niente, non che non sei connesso con quello CB Talk e buh, non ti può vedere. La manca cosa, pace bene. Ciao Gianfra, ben entrato. Sì, se ascolti no, ma quando io per esempio faccio prove sul 40, sul 19, che fischio, entra lui, vabbè, cosa sta combinando? Mi becca subito, non si scappa. Bene, vai Robe per i saluti a Gianfra. Non mi volete fare il prezzo, scusa già, forse abbiamo ripreso assieme, dai, riprendi anche tu, dai. Non c'è problema. Buonasera a tutti, dai. Era la battuta. Ciao comunque, ciao Gianni e ciao Gianfranco. Gianfranco vede il coso, la cascata, come lo puoi fare con questi sistemi digitali, attacchi col computer, ti vedi tutto con l'analizzato di spettro, ti fa vedere tutte le portanti, se sono in AM, in banda laterale, in FM, eccetera, eccetera. Però se uno sta ascoltando non c'è strumento che ti possa ritracciare. Bianco un attimo. Siamo pedinati, ciao Gianfranco, ciao anche a te Roberto, ciao Marco, avanti Gianfranco. Sì, buonasera a tutti. Io stavo facendo altro e ho sentito che mi hanno nominato, quindi sono intervenuto così. Sì, si può fare anche quello comunque, vedere se uno ascolta, però è un altro sistema particolare. Sì, se sei digitale, magari con qualche sistema collegato a qualche server o cose del genere, come CB Talk, però se io sono in analogico non puoi vedere niente tu, se io ti sto ascoltando. Ma l'analogico il programma non esiste più, cioè esiste, nel senso che esiste, ma tecnicamente per altre prestazioni non serve a niente più. Sì, naturalmente il futuro è sul digitale, è un altro tipo di sistema, ci sono tante altre cose, però io se sto ascoltando adesso a te, ti sto ascoltando sul canale 10, non esiste strumento che tu puoi sentirmi o vedermi. In ascolto ovviamente è difficile, a meno che non sei sotto casa e c'è un sistema per rilevare addirittura le legislazioni delle medie frequenze, ma quella roba molto grossa. Comunque è così. Sì, tutti gli altri sistemi invece si può fare tutto. Riprendete che sono impegnato. Eia. Ok, facciamo riprendere a Gianni doppio numero avanti a te, io faccio un attimino di bianco e arrivo subito. Eia. C'era Claudio che pare, no? Claudio ci sei. Sì, tu Gianfra, non entra nessuno. Marco! Sì, sono qua, no, forse sta girando il video a Roberto, sta girando un video che ho mandato a Roberto. Già, mamma mia, una giunagana, però devo uscire a fare una commissione, mi sto preparando spiritualmente, dai. Sono qua già, sono qua. Io l'ho visto fermato un attimo, ho catapultato tutta la cucina, ho cambiato tutta la carta che c'è sui pensili, no? Metto la carta io per evitare roba oleosa, roba... Ho cambiato tutta la carta. sto raschiato dove devo raschiare, perché stava scendendo l'intonaco da quando si è allagata la casa di quello di su. Ho raschiato, scaccato, fatto e poi ho pitturato. Poi ho pulito tutto in terra, mi sono fermato un attimo, poi mi ha chiamato mio figlio, ce l'ha accompagnato in banca, l'ho accompagnato in banca. Adesso mi è l'unico momento, dopodiché Tyson stava sempre lamentando, se alla fine l'ho preso, l'ho portato giù e la diarrea, e quindi non ho riposato, stavo anche 5 minuti, Marco, immaginati. Chi avete rilanciato? Io stavo parlando con te, Marco, non lo so. No, perdonami già, mi sono distratto. Posto smartphone, dimmi cosa mi hai chiesto. No, niente, ti stavo raccontando la mia giornata, vabbè, comunque lo faccio. E qua che mi chiama a destra, che mi chiama a manca, eccetera. E stamattina per fortuna sono uscito, ho fatto varie commissioni, ho fatto prove anche in macchina, via radio. E tutto lì, dai. Avanti, gioca. Sì, io non è che posso parlare più di tanto, perché ho una specie di tosse dita, quindi la voce è molto bassa. Riprendi, Marco? Sì, volevo chiedere una cosa a Gianfranco. Questo vale sia per i ricevitori SDR, ma anche per questo. Il filtro in SSB, il filtro come va messo? Preferibilmente a 2,2 o a 4 kHz? Mi pare di averlo visto sugli SDR predefinito a 2,2, non so se è migliore mettendolo a 4, ma a orecchio cambia poco niente. Ma no, a 4 si allarga, è quasi dalla M, allarga troppo. Allora lo lascio a 2,2, no, perché all'inizio predefinito era 1 kHz, ma era troppo chiusa la modulazione, troppo chiusa, non era bella sentirsi, adesso molto ma molto meglio. A 2,2 mi pare, o 2,4 se non mi ricordo. 2,4 o 2,5 per quella radio dovrebbe andare. Meglio, ok. Claudio, vabbè, avevi finito, avevi girato il video. Sì, Marco. Sì, me l'ha mandato il coso, l'immagine. C'è anche, l'hai visto che c'è anche l'indicatore del segnale ricevuto con la radio? Sì, in DBU, decibel microvolt dovrebbe essere, però è... ma a me pare mezzo farlocco, non c'è corrispondenza con la realtà, mentre nel come dire, nel Texun vedevi una barra da 1 a 5, poi ti facevi le corrispondenze, no? Però era più in tempo reale, quella è lenta nel reagire, poi c'ho una tabellina delle conversioni da decibel microvolt al Santiago, no, come se fosse uno Smith, però non mi sembra un po' farlocco, vabbè. Comunque c'è. Come ti è sembrato l'audio? No, già era buono, tieni presente che in banda laterale il segnale non è costante, per cui è tutto altanellante. Io ho visto che il mio funziona perfettamente, l'ho provato in FM, in banda aerea e cose del genere, è molto sensibile, anzi appena lo tocchi appena l'antenna cambia il valore, per dire, se fai la prova con l'antenna bassa, la allunghi, cambia totalmente, se giri l'antenna, molte volte quando io voglio vedere un segnale, la direzione, parliamo di broadcasting, prendo l'antenna e la oriento e vedo più o meno dalla direzione da dove arriva il segnale, e mi dà l'aumento, vedo proprio l'aumento del coso, e poi c'è il rapporto segnale disturbo e la seconda cifra che c'è di fianco. No, il mio funziona in banda laterale, non lo so perché non è la mia banda laterale, però ti è presente in banda laterale anche il coso, in un baracchino, in un ricevitore c'è sempre lo stesso problema, il segnale, hai visto, non è mai costante, salta. Sì, poi lì si stava anche chiudendo la propagazione, praticamente ho fatto varie registrazioni, per esempio su un canale uno arrivava, gli altri no, capito, una sola frequenza. È così, bisogna provare in primavera e estate, lì quando c'è proprio il furore della propagazione. Persino lì migliora, in quelle bande. Comunque dai, carino. Credo che abbiano rimesso l'offerta a 63,90 €. Avevo chiesto anche a un'altra persona se lo voleva, ma non ho saputo più niente.